sta per succedere di nuovo. Ma mio chi ci crede? No, no, questa volta galassia. È vero. Oddio. Non ci crederete, ma 100 Celle Avengers torna in onda. Sì! Sì. E chi lo avrebbe detto che la musica si tornava a difendere? Che bella coniugazione dei verbi che ho scuola usato per ritornare per insieme a voi. Sono così emozionato che ovviamente il linguaggio va un po' così a farsi benedire. Solo stavolta. Ma ci solo piace così. Questa volta. Siamo alla 58esima puntata di 100 Celle Avengers ma su Radio Forte. Non lo so, forse vedi per arrivare a 100 infatti. Vabbè, 100 grandi festeggiamenti. Se non altro, se abbiamo questa cadenza, poi potremmo essere anche abbastanza vecchi, per non parlare di Pippo che sarà già adolescente quando faremo la prossima. Ma comunque non indugiamo su queste cose e cominciamo subito a salutare alla console, alla mia destra, Betta. Buonasera piccoli nerd. Segnali a caso. E alla mia sinistra, sempre una console comunque in un certo qual modo, Virgi. Buonasera, non so più quali sono le cose per fare le cose, aiuto, eccolo, beccati gli applausi. Ultimo ma non meno importante, The Beautiful Mind, Franci. Un saluto differenziale a tutti. Incredibile. E ecco, non dimentichiamo quest'oggi di salutare le nostre spalle, le nostre due spalle attaccate ai piedi, e non si è capita questa cosa, vabbè, una metafora un po' così colorata. E Iron Man, benvenuto, bentornato, di qualcosa. Grazie. No, non troppi concetti che poi la gente lo capisce. Io faccio un attimo il test. Applauso. E ultima ma non meno importante, tutti gli ultimi ma non meno importanti, Alexa. Risata. La nostra intelligenza artificiale che non manca di dimostrare di essere intelligente. Che possiamo dire, se stanno a invecchiare pure loro, ormai iniziano. Ah sì? Ah, c'è una certa. Eh sì, beh. Ma salutiamo anche gli assenti. Esattamente. Vabbè. Brava Betta, volevo dirlo. E vorrei salutare anzitutto la maestra professoressa Viola, che ci sta sicuramente seguendo. Ciao, in Toscana. Ci l'abbiamo spoilerato, se la volete cercare. Andatela a trovare, via. Via, esatto. Ma soprattutto la giornalista Gabri Grupi. Anche lei, andatela a trovare in via. Con la quale ci collegheremo più avanti sfruttando delle tecniche ormai all'avanguardia qui a Radio Forte 100 Celle Avengers, che ci permettono di ripercorrere il passato nel presente in diretta, insomma praticamente registrato. Però, però ci collegheremo comunque con un suono del passato, quindi cioè, sarà una cosa interattiva. Un passuano. Sempre per dire che l'abbiamo registrata, però fa più figo così. È il infatti suono del passato di oggi pomeriggio. È il suono di un'ora fa, di un'ora e mezzo fa. Chissà com'era. Mentre appunto, non essendo qui la giornalista di qui sopra, il suono del presente è solo col suo dolore. Iara! Iara! Ma bando alle ciance, salutiamo di nuovo la nostra giornalista faziosa. Oggi ovviamente, tornando dopo tanto tempo, non potevamo avere un tema. Cioè, il tema è il ritorno, se volete. È vero, non ci abbiamo nemmeno pensato a trovare ma un neanche, tema. Nemmeno neanche abbiamo detto la parola te, neanche ti. Ci siamo lanciati nel nostro solito, diciamo, curare ognuno le cose sue. Però non possiamo far finta di non essere in un certo crocevia della vita musicale, della scuola di musica, della quale non so se vi ricordate, ma facciamo, diciamo, un po' la voce, la trasmissione riguardava quello, ragazzi. Non so se voi ricordate, poi ci siamo persi, ma comunque si parlava della scuola di musica, quindi ci sarà anche grande attualità, grande tuffo nel passato, perché quest'anno le registrazioni di Terzaggio non sono state pubblicate apposta per creare hype, non perché chi se ne doveva occupare si è perso un po' nei suoi cosi. E quindi bando alle ciance, adesso una musica sbarazzina, perché comunque se no poi troppe cose non veniamo a capo. Non fare così. Scusami, hai ragione Iron Man, mi riprendo e ascoltiamo Runaway di Jamiroquai, che tra l'altro torna a suonare dopo 6 anni, il tema del ritorno, vedi? Hai fatto pure questa. Applauso, ottimo, applauso. Bravissimo. Grazie. Jamiroquai. Stai ascoltando Radio Forte e questo è Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. Radio Forte, Centocelle Avengers, dopo questa bieca mossa di mettere lo spottino con la voce di Mario, dopo che si è appena svolta la trasmissione Regolamose, per far credere ai fan di Regolamose che è ancora Regolamose, invece no. Salutiamo Mario comunque, noi, che ci segue sempre. E comunque Mario ci aiuta anche a ricordare appunto quello che dicevo prima, di cosa parliamo noi di solito della scuola di musica. Poi abbiamo preso la tangente, ma oggi siamo molto focalizzati, perché appunto abbiamo diversi contributi musicali finalmente derivanti dal passato, il passato di questa estate, luglio in particolare, che è il mese per antonomasia nel quale si svolge il saggio di fine anno, in cui facciamo vedere quanto siamo bravi, perché voi non ci credete a cosa è servito tutto questo. Esatto. E quindi con un certo orgoglio lancio subito la sigla, che è un po' che non sa, che si sentiva anche questa, di Centocelle Amarcord. Sigla. Ricordati di te com'eri prima, un'estate fa, l'anno vecchio è finito ormai, un'estate fa, ti ricordi, un'estate fa, tutti quanti stiamo già aspettando, un'estate fa, messaggio che è un nuovo anno, mi ricordo che anni fa, un'estate fa, ricordati di me. E vale la pena di sottolineare, anche se lo faremo più avanti con un'apposita sigla sempre, il fatto che da qualche anno la classe di musica d'insieme della scuola di musica si divide in quattro, performanti band, le quali per quest'ultimo anno che è appena finito avevano dei nomi, diciamo, richiamanti il quattro. Semplicemente sono stati a volte i quattro elementi, sono stati già non mi ricordo più, datemene un altro. I quattro segni. Perché in mezzo c'erano i due Beehive e perché Gemma. C'è stato l'anno in cui erano due, sì, quindi erano i Beehive e le Holograms. Non sono state mai proposte le quattro operazioni o questa cosa. Addizione, sottrazione, divisione. Mannaggia, questa è la top. Ecco i meno. Esatto, che poi e noi agino. Comunque sarebbero due le operazioni. Comunque quest'ultimo anno ci siamo appellati ai segni delle carte, quindi eravamo cuori, quadri, fiori, picche. Ma che meraviglia. Come quando fuori piove. Di piove, e quindi abbiamo un contributo per ognuno di questi gruppi, ovviamente, per essere giusti. Tra l'altro notavamo prima che in questa redazione, in questo momento esatto, noi siamo quattro e incarniamo quattro rappresentanti fieri dei quattro suddetti gruppi. Per cui dobbiamo essere quattro, per cioè Viola e Gabri sono state lasciate a casa apposta. Esatto, gli abbiamo detto no, oggi è meglio se non vieni perché dobbiamo rappresentare le classi. Dai, diciamoli come facciano sulle sigle dei robottoni. Betta, picche! Diciamo che comunque Viola come l'ha cassata subito. No, è stata migliorata. Vabbè, mi ha detto male. No, scusa. Brava, Betta, brava, sì. Tipo Ken, l'Aquila. Esatto. Ehi, ci sono anch'io! Esatto. Comandante, comunque volevo dire che Viola mi devi preparare il di nome, di fatto è un fiore. Oh mio Dio, grazie. No, nel senso che Viola, se fosse stata presente, avrebbe rappresentato anche meglio di me, che comunque facevo da maestro ai fiori, i fiori appunto. Comunque ci sono anch'io per i fiori. Ah, perché tu hai di gusto. Però, qua, lo so che tu militavi in due, abbiamo dovuto dire questa cosa, ricordiamolo. Comunque tu qui rappresenti i quadri. Io sono i cuori con la Q praticamente. Anche questa vabbè, dai, merita. È andata così. Perché non si comunque no, Franci, comunque tu no. i numeri, no le parole. Letteratura, no. Letteratura zero. Ci manca Viola. Zero. Sovvertendo l'ordine di cui sopra, come quando fuori piove, noi piove fuori quando... cominciamo con le picche, questo dire, fondamentalmente. E quindi, se non ci sono altre... Ah no, vabbè, vogliamo dire... Vabbè, niente... forse fare la formazione, cioè a me sicuramente mi mette in difficoltà e non mi ricordo i nomi e quindi andrei annaspando. Accollare la Betta, la quale già si accolla di aver cantato questo pezzo che stiamo per sentire. Ah, è mio, te lo volevo dire, te l'ho detto così. Aiuto, che vergogna. No, io potrei anche farlo, ma ci passiamo tutta la trasmissione perché siamo tipo 10. Erano 22, sì. Allora, i bambini non stanno bene. Questo è il brano Kids Aren't Right dei picche, e andiamo ad ascoltare Betta e i suoi amici praticamente. Sì, quindi. Vuoi che li dico? Alessio, Giorgia, Michelle, Betta. Applauso continuato. Giuseppe, Mallio, il maestro Armando, Francesco, oddio che mi sto ascoltando, Simona, Ivano e Lorenza. Basta, mi sa che ho detti tutti. Oddio, grande, se mi sono scordata questa cosa. Io sono arrivata a 12 comunque. No, eravamo troppi. Un applauso alla memoria comunque di Betta. Dai. E ascoltiamo The Kids Aren't Right. We're young and free. sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, avevamo detto che avremmo fatto chiarezza ulteriore su questo fatto dei quattro nomi, quattro cavalieri dell'Apocalisse, spoilerato. Pure quelli non abbiamo usato. Lo so, ma in realtà l'abbiamo usati. Cioè, vabbè, gli evangelisti, niente. Veramente. Diciamo che è una citazione musicale che solo Franci, se non sbaglio, aveva colto a suo tempo. E che adesso gli ascoltatori hanno la possibilità di apprezzare e nessuno la capirà. Però se la capite potete scriverci sul canale Telegram, che adesso Betta vi dice qual è. Oddio, sì, oddio. Oggi veramente Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ho fatto lo spammino stamattina, esatto. Sì, ma non lasciando perdere la stanza allora. Gizzi che risale agli anni 80. Ma esatto. Noi diciamola lo stesso. Ma noi c'è, esatto, ce la mettiamo uguale perché siamo molto affezionati. E sul canale Telegram t.me/100celleavengers e anche in diretta su Radio Forte su fortebrenestino.net/radioforte. Ma quanto sei brava. E se vi perdete se vi perdete la puntata senza studiare. Se vi perdete la puntata, abbiamo un replicone della mattina, domani mattina, tutti pronti alle 10 ad poi ascoltarla. Basta. E poi abbiamo la possibilità perenne, perché è quella poi che ci interessa, di ascoltare in podcast questa meravigliosa puntata e le 57 puntate prima. Incredibile, qua un applauso, niente. Vabbè, 50... no, hai ragione. Lo sai che è? Che sta applauso dura troppo. Poi ci si parla sopra, vedi? Ma c'è lo stop comunque. No vabbè, ci rivelo sta cosa dopo un po' di tempo. Ma dopo 58 puntate? C'avevo pure scritto stop. Vabbè, comunque c'è pure la frizione, tutto a posto, tutto a posto. Tutto perfetto allora. È il momento forse di lanciare la sigla più, diciamo, strettamente collegata al mondo dei quattro, che in realtà ci dà poi lo spunto per parlare di attualità, e cioè dei quattro di quest'anno. Questi sono i quattro dell'anno scorso. Quadri, fiori. Muori. Quadri, fiori. Cuori. Quadri. Fiori. Picche. Cuori. Quadri, fiori. Cuori. Quadri, fiori. Picche. E ringraziando la moltitudine di artisti che ci hanno aiutato a registrare questa sigla, passerei anche la parola a Virgi, che è un po'... No, sì, dimmi che devo dire. No, pensavo che tu avessi... Oggi non ci stai preparando. Vabbè, preparatissimo. Ok, scusate. No, passami la parola, non so perché però. No, per vabbè, presentare i bloopers per caso. Sì, forse sono zompato un po' avanti, perché in effetti i bloopers poi sono, cioè, vanno motivati. Un po' sì. E appunto il motivo è che il nostro drone spia DR100... che non avevamo salutato, quindi l'abbiamo salutato, si reca sovente nelle sale prove di nascosto, registra cose e poi ce le porta a noi, che le pubblichiamo. Direi che prima di parlare di attualità, infatti, ci possiamo avventurare un po' nel passato, di nuovo, perché noi non siamo affatto nostalgici, e ci buttiamo a sentire come inizia il tutto, quindi le prime prove dei vari laboratori per motivare i nuovi e i vecchi arrivati a capire che in fondo invece quando sentiamo i brani del saggio si migliora. Quindi come sono le prime prove e come sono le ultime lo sentiamo direttamente dal nostro 100 celle a Marcord e dai nostri bloopers. In questo caso ci sono dei bloopers che risalgono a non mi ricordo nemmeno quando, forse eravamo addirittura allo Squadro Elementos davvero e quindi quando volete risentiamoci un po' come eravamo. Bloopers dannata. Esatto, senza vibrato tutti e due. He's a pinball wizard, has got to be a twist. A pinball wizard got such a supple wrist. Giusto. Belli, siete belli. sono stato me stesso mai. No, non c'è niente da capire, per arrivare così mai vai. Di noi che sarà. Vai Ani. Scusa Maria, tu che hai sentito? Ma ho rallentato? Questa volta? Ce lo devi dire in diretta sabato. Anzi no, basta, non so quando andiamo in onda. Addio. Qua, ciò, tre, quindi quello. Qua, ciò, tre, po. Venga messa a posto, cambia il costo e già si sa. Quello che attendi, aspetti e difendi, ma non riprendi, una solo fatta estendi. Ucciso sto trovo a posto, di chi ti porta fresco solo è bene il giusto costo. Almeno quando si può, più se tu metti, più ne ho, c'è più non so. Aspetta, mi puzza di veloce, mi puzza da di velocissimo. È chiaro, è chiaramente veloce. Sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, abbiamo ascoltato la scatola nera, diciamo, delle prove di tanti anni fa, direi tanti, anche prima della nascita di questo scusate, c'è cioè, Virgi che mi dà delle indicazioni giustamente e quindi mi sono perso. Comunque vabbè, avevo messo questo stacchetto pubblicitario soprattutto perché ci eravamo scordati di salutare mamma. Di salutare. Cioè, sentite com'è più angosciata la voce quando dice mamma, perché invece quando dice papà, cioè, è tutta un'altra cosa, ragazzi, scusate, vabbè, niente, salutiamo. Molto più sicuro di sé, Gabri Grubi e soprattutto il piccolo papà Filippo. Quando mi dovessi sentire un attimo scoglionato mentre facciamo questa puntata, voi papà, ricordatevi tipo perché lo sto facendo. Vabbè, bando alle ciance, è arrivato già il momento dei fiori. Sì, abbiamo sentito, cioè, come eravamo, adesso aspetta. Sentiamo. No, cioè, nel senso, nell'attualità va comunque menzionato almeno il fatto che perché non abbiamo più i nomi di quattro cose, quattro ristoranti, quattro evangelisti, quattro, perché abbiamo lasciato quest'anno spazio alla creatività dei gruppi ai quali non facciamo più scegliere i pezzi assolutamente, quindi quelli vengono imposti, ma... E abbiamo detto sceglietevi voi il nome, cioè avete tempo fino a una certa, perché non lo potete dire. Infatti adesso non ho il nome di nessuno, forse ne ho uno se volete, ma comunque più o meno nessuno ancora si è espresso in maniera definitiva. E quindi, cioè, per creare, diciamo, quell'identità, scusate, da gruppo proprio, vero e proprio, che forse andava un po' persa quando ti chiamavi Cuori Fiori Picche, e per cioè, darci con tutto il rispetto, per darci il contentino che non scegliamo i pezzi. Anche quello, anche quello, ma soprattutto per vedervi litigare, perché io poi nella vita, sì, quando ho avuto un gruppo, no, litigato no, ma comunque passato tempo lì a scegliere, a pensare, a sondare, a fare proposte col vocabolario in mano, proprio a cercare le parole, i modi di dire e quant'altro, ce l'ho fatto. Poi quadri, cuori, fiori, picche. E poi è finita la quadri fiori. Lo so, non lo sa di nessuno. Così veloce no, non ci riesco. Comunque volevo spoilerare per quanto riguarda il gruppo di cui ho il privilegio di essere il maestro, che la proposta è più o meno insita in questo vecchio spot di Centocelle Avengers. Maestro, ogni volta una grande emozione, ma come fa? Ascolto Centocelle Avengers su Radio Forte. Radio Forte è buona qui, è buona qui. Radio Forte, più del piacere della radio. E quindi salutando Giuseppe Veli Happy, che registrò questo spot per noi, dirò che i miei giovani mi propongono, forse non tutti all'unanimità, però comunque la proposta che fino adesso è rimasta un po' più, diciamo, stabile è De Infre. Ma questo è un applauso senza lo stop. Cioè, ovviamente non possiamo, non si può dire siamo i De Infre, dobbiamo dire siamo De Infre, we are De Infre. Sottotitolo BQ, BQ, buono qui, buono qui. Comunque, io ovviamente la caldeggio questa proposta perché mi onora, però diciamo poi vedremo come andrà a finire. E, per quanto riguarda l'attualità, io posso ancora fare un po' il vago, però cioè, sottolineerei almeno una cosa successa dall'anno scorso. No, ho fatto anche il gesto con le mani. Ho fatto un gesto che nessuno ha visto, ma comunque di una certa moccia, penso io. C'è una nuova maestranza. Che faccio? Mi aggiungo da sola? Mi annuncio da sola. L'applauso se ne è. Diciamo, ho fatto il salto di qualità, diciamo. La pluri allieva, pluri perché appunto, come ha sottolineato anche lei, già l'anno scorso e anche gli anni prima, l'anno scorso comunque stava sia nei fiori che nei quadri. Comunque la pluristrumentista Virginia ci diventa anche maestra. Eccomi qui. E cioè, valeva la pena di sottolineare, diciamo, la potente Virginia. Con molta soddisfazione, devo dire, sono veramente onorata. Come dice il maestro che è onorato dei propri allievi, sono più che onorata, ancora di più. Ma finiamola qui. Ma finiamola qui, non ci sbrodoliamo. Molto bene, avevamo detto che è il momento dei fiori. E quindi io, per attaccare la pippa ulteriormente, devo necessariamente lanciare una sottosigla del sotto spin-off relativo a questa esibizione, che è questa sigla. Biascicone l'arrangia per noi. Non fai così. Biascicone l'arrangia per noi. Ti butti sempre giù. Biascicone l'arrangia per noi. Biascicone l'arreda per noi. Che hai fatto stavolta? Per chi si fosse connesso soltanto oggi, Biascicone è un allievo della scuola di musica che spesso si è proposto per accompagnare. Per accompagnare cantanti, solisti e anche, diciamo, vari altri che avevano bisogno di un vero musicista. E, ha purtroppo il problema del bere, come dice il nome, e quindi dopo una certa ora il pezzo lo faccio, però mi chiedete di parlare, perché biascica appunto. E si propose l'anno scorso di accompagnare un pezzo che necessitava di uno strumento che non viene insegnato nella nostra scuola, che è la fisarmonica. Allora io, cioè, dando fiducia a tutti quanti, cioè, ho detto vabbè Biascico, se proprio te la senti, non sei sicuro, cioè il palco, l'emozione, non è che non ti preoccupare, mi disse lui. E quindi per rendere omaggio anche a lui che suonò solo questo pezzo nel saggio dell'anno scorso, Orello, ascoltiamo Objection di Shakira. Madò! Cantata da Sophie. Vogliamo fare e interpretata da Biascicone and the Flowers. Dimmi. Vogliamo fare un excursus del gruppo veloce come abbiamo fatto con i picche? Così dai. Faccio la figuraccia, gli insegniamo pure, comunque, non mi ricordo. Vabbè, comunque Davidone, il batterista che rolla. Che rulla, scusate. Virginia, la polistrumentista che non è più polistrumentista, che non è più allieva, scusate. E Simone, che mo so pure scordato. Bravo! Al saggio. Anche lui polistrumentista, chitarra e pianoforte. Poi chi ci abbiamo? Alle aiutami. Voci abbiamo il trio Giovanni, Nora, Sofì. Giovanni detto Gianni Krevitz. Gianni Krevitz. E secondo me ci siamo scordati qualcuno. Anche secondo Alessio alla chitarra. Lo sapevo. E Alessio... Viola, che era la nostra. Alessio detto. È vero. Perché comunque anche lui aveva questa cosa di dover andare via a fine prove subito, perché lo aspettavano a casa. E poi abbiamo la nostra Viola, fiorellino onorario, che è fiorellino che di nome di fatto. Che abbiamo già detto essere un fiore, esatto, bravissima. E quindi da questa formazione incredibile che andiamo ad ascoltare, come ho detto, Objection. But all the damage she's caused is unfixable. Every chance I take, you repeat her name. But when it comes to me, you don't care. If I'm allowed to go, objection, I don't want to be that center. Yeah, I'm your dancer. I love you for free and I'm not your mother. But you won't leave on my. Your eyes, I'm invisible. But you get enough more than gold, so count. You better put your feet on the ground. The table is about to open. I don't wanna be that center. Yeah, I'm in a mirror, and I'll love you for good, and I'm not your mother. But you won't leave a man. Oh, touch your hand, direct, so please try to go. Yeah. Radio Forte 100 Celle Avengers, c'è sta un'errata corrige da riportare. No, non è un'errata corrige, è che noi una mancata corrige. Esatto, scusa. Noi dovevamo ricordare oggi per tutta la giornata che fra un po' incontreremo il nostro Marco e non lo abbiamo inserito nella presentazione del suo gruppo. Quindi Marco era nei fiori, ma sarà anche in sala prove fra poco. Ricordiamoci. Sempre per la questione indirizzi, dove trovarci. Mi raccomando, ricordiamoci alle 6.30 Marco, sala prove. Qualcuno di noi ci dovrà sganciare. Molto bene, corretta questa cosa, credo il momento arrivato, o è arrivato il momento, scusate, sto disconnesso. Piascico. Te fai scoprire così però. Non è vero, io e Piascicone siamo amici ma non siamo la stessa persona, cioè. È arrivato il momento del collegamento più incredibile del mondo. Il collegamento che ci porta tra passato e presente. Ma allora, professore, no, non quel fra passato e presente, ma esattamente due ore e mezzo fa. Quindi ci collegheremo col suono del passato, ma soprattutto con la giornalista faziosa Gabri Grubri, anche detta. Mamma. Ok, che si trova a casa con il piccolo Astianatte, detto anche Pappo. Cioè, sta succedendo? Se gli dici come non ti chiami, lui dice Pappo. Ma si tratta di Filippo, vabbè. Mamma. Ok, hai ragione, te la faccio sentire, mamma. Adesso ci colleghiamo quindi con i cigni di Balacà, in differita presente e assente. Radio Forte, 100 Celle Avengers, finalmente in una versione nuova, rinnovata, intima oserei dire, in collegamento dalla dépendance del nostro studio, situata a Roma Nord, al nuovo salario. Ci troviamo qui con una vera professionista, una vera tigre dell'informazione, colei che indomita ha voluto comunque presenziare a questa puntata e che passa con il nome pseudonimo di Gabri Grubri. Un bel applauso. Non abbiamo l'applauso. Radio Forte, 100 Celle Avengers, finalmente in una versione nuova, differita, che cadono, che siamo in pieno autunno, ci siamo lasciati mandate un applauso. L'onore è tutto mio, questa sì che è una presentazione dolce, dolcissima, calda, e mentre fuori vedo le foglie che cadono, che siamo in pieno autunno, ci siamo lasciati una stagione decisamente più calda, ma eccoci qui e sono contenta di raggiungervi, che la mia voce vi raggiunga in differita da questa intima versione. In una congiunzione astrale tra passato, presente e passato prossimo. Sì, siamo in questo momento seduti intorno a un tavolo, abbiamo con noi anche Iron Man, oltre a Filippetto che però in questo momento dorme. Buonasera. Buonasera agli ascoltatori. Oh, eccoti Iron Man in tutta la tua... Iron Man, ti sento un po' influenzato. Forma. No, per carità, che già di influenze ne abbiamo avuto abbastanza e non siamo neanche a Natale. Bene, bene. Di cosa ci occupiamo oggi in questa atmosfera così intima? Beh, anzitutto ci dica, giornalista Gabri Grubri, cosa sì. Sta per succedere? Un altro episodio, un altro sì. Evento? Allora, di cosa? Siamo per lanciare una nuova freschissima puntata di Cigni di Balacà. Sigla, maestro! Ma non lo senti che è uguale ai cigni dei Balacà? Oh, quanto tempo! Quanti ricordi? Ricordiamolo che andiamo in onda dopo circa 2 anni di assenza, non è vero, un po' di meno. Comunque è tanto che non sentivo questa sigla. Sì, per chi non lo ricordasse. Esatto, quasi va ricordato cos'è Cigni di Balacà. Diciamolo sempre a beneficio di tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. e la Cigni di Balaca è la rubrica che si occupa di scavare, così andare alla ricerca di plagi e misfatti e contraffazioni che riguardano sempre la musica e diciamo argomenti e questioni varie anche più ampie che riguardano il copyright, le royalty, il diritto d'autore e bla bla bla. Ne abbiamo parlato. Soldi. I soldi, certo, legati il business che è legato alla musica, purtroppo o per fortuna. E quindi stiamo per tornare sul luogo del delitto, stiamo per riprendere una questione già trattata. Pensa addirittura nel 2021, mi sono andata a rivedere, se non sbaglio, puntata 22. La puntata 22 che è stata splendida e io ero anche un po' al cornice. Che era? Splendida. Splendida, sì. No, ricordo che un po' così in maniera allegra e allegrotta facemmo quella puntata e di cosa discutevamo all'epoca, appunto una cosa che torna a bomba anche oggi nell'attualità, parlammo del nostro amico Bruce, che io non sapevo appunto Bruce Willis? Bruce Dickinson? Bruce Batman. Bruce Wayne volevi Bruce dire Wayne, Bruce Batman veramente top of the pop. Scusa, comunque si trattava di Bruce adolescente di primavera. Sì. Ah, mi piace detto così. Bruce vero. Adolescente di primavera, anche detto Springsteen, visto come l'ho detto bene. Mamma applauso. Mia, ci sei impegnata. Grande applauso dal futuro. Applauso dal futuro. Ecco. Grazie, grazie. Mi è arrivato. Grazie. E quindi dicevamo di Bruce Springsteen. Eccolo già. Non sono ubriaca questa volta, giuro. Che nel ha venduto, ecco perché ne abbiamo parlato, vendette i diritti del suo intero catalogo musicale. E a chi li vendette? Alla Sony. Niente circa, proprio di meno che Betta. Sì, esatto. Betta ne sa qualcosa, si sente chiamata in causa, molto bene, ciao Betta. E alla modica cifra di 500 milioni di dollari, ecco che Bruce Springsteen si ritrovò a cedere tutti i diritti di tutto il suo catalogo musicale, quindi tutti i brani e le canzoni scritte nell'arco di una carriera folgorante. E accadeva nel 2021. E questo accordo in particolare ricomprendeva i diritti sui master delle canzoni e appunto sul catalogo di 20 album. Quindi pensate un po', ben 20 album registrati in studio, 7 EP, 23 live e oltre 300 brani. Le motivazioni... No, prego, prego, volevi... No, figurati, è che non volevo che tu spoilerassi quello che già abbiamo... Perché abbiamo una sintesi, no? Noi non volendo ripeterci, ci ripetiamo. Uh-huh. Abbiamo più o meno una sintesi di quello che fu la puntata 22 del 2021 ed è questa. E parliamo di Bruce Springsteen in questo caso. Bruce Springsteen avrebbe venduto i diritti delle sue canzoni alla Sony per mezzo miliardo. E questa volta è toccata a Bruce Springsteen, per l'appunto. Posso come dire sappiamo, che Springsteen? Springsteen. Sting non c'entra niente in questa storia. Sting non c'entra niente in questa storia. Mamma di Bruce Springsteen è italiana, ma precisamente dai, sì, giura. Di origini italiane ed è napoletana. Ci ho detto, quindi dicevamo che Springsteen in questa cupa epoca. Ciao Bruce. Hai unito, Bruce, te prego. Hai unito il nome e il cognome, sì. E niente, questo per sottolineare che diciamo un personaggio talmente altisonante che non si riesce a pronunciare il comunque suo nome. Io disconosco. No, non era Gabri Grubi, no, questa no. Era una sua omologa. Beh, non so se all'epoca eravamo, ma certamente sì, ora non lo ricordo, ma eravamo sicuramente arrivati a dire le motivazioni, il perché. Per non far litigare i figli. Bruce, sì, esatto. Si è spinto fino a questo gesto estremo perché in sostanza aveva necessità o comunque ha scelto in quel momento di avere una fonte di ricchezza liquida immediata piuttosto che insomma, perire e con lui sicuramente vedere l'apertura di una catastrofe familiare, di litigi interni, endofamiliari, per la proprietà dei suoi diritti, per la gestione dei suoi brani. E quindi in maniera molto lungimirante ha pensato di godersi, ecco, in vita i frutti della sua fatica. E poi casomai avrà lasciato i due spicci comunque eredità. Sì, penso di sì, però insomma si è pagato la pensione da solo, ecco, diciamo così. Almeno non si sono litigati canzone per canzone. Gli eredi, ecco, sono in questo modo. A parte che lui, abbiamo detto che ancora è vivo. Ok. No, perché prima c'era un dubbio, non è fuori onda, quindi no, adesso lo chiariamo. Capita che dice: "Oddio, ma alla fine è vivo." No, anche perché poi c'è un seguito, un motivo per cui ne parliamo oggi. Ma prego. Sì, ma a questo punto io non faccio altro che ripassarti la palla, perché i Cigni questa volta appunto si è onorata di ospitare al suo interno un spin-off che curerà appunto magistralmente il maestro qui presente, Suanovic. Con la voce di Suano Pagliaro. Con la voce di Suano Pagliaro. E riguarderà quindi un argomento che non è propriamente di musica, o comunque lo è, perché parliamo sempre dello stesso personaggio, del nostro caro amico Bristi. Bruce. Bristi. E che tocca l'argomento del biopic, ma non voglio dire nient'altro. Ed è spoiler. Ti cedo la parola e con questo vi saluto, amici. Addirittura, cari. Mo te ne vai. No, resto sempre qui, ma grazie, non so se avrò poi occasione di salutare i miei amici. Ma sì, ma vedrai che... Bene, comunque, nel 2021... Cigni di Balacà si trova a trattare una questione di diritti d'autore. Vabbè, non riesco a far Pagliaro per tutto il tempo. E volevo soltanto ricordare come appunto Bristi abbia venduto i suoi diritti alla Sony, famigerata Sony, quella stessa Sony che si è comprata l'uomo ragno, costringendo la Marvel a fare un uomo ragno nuovo e scrauso, o comunque un po' rimaneggiato, con la zia May giovane, lui minchione, insomma tutte queste cose, solo perché la Sony se l'era comprato. E anche la stessa Sony a cui Michael Jackson vendette il catalogo. Perché cito il buon Michael? Perché sempre nello spin-off dello spin-off avevamo raccontato di come Michael Jackson e Paul McCartney, che erano diventati amicissimi, a proposito, appunto parlando di diritti d'autore e di vari investimenti possibili in vita, Michael Jackson e Paul McCartney avevano cercato loro stessi di convincere Bruce a vendere, e questo è il documento che lo prova. Adesso ti faccio vedere io come spendo i miei soldini. Michael? Woohoo! Michael! Ti piace come ho speso i miei soldini? Forse non dovresti correre così, Michael. Woohoo! Dobbiamo sbrigarci! Abbiamo appuntamento con Paul! Ho qualcosa di grave da comunicarti. Ma dove siamo, Kit? Ti ho pagato un sacco di soldini e ci siamo persi. Perché Paul mi ha dato appuntamento qui? Ho rilevato un veicolo in avvicinamento, Michael. Sembra un vecchio pick-up. Oh! Ecco, è sbarcato! Molte grazie! Arrivederci! Ciao! Molte grazie! Eccoci arrivati! Oh, oh! Hai finito i soldini? Non essere antipatico! Ho solo chiesto un passaggio! Paul, siamo nel deserto! Ma cosa? Non fare lo stupido. Ti ho già detto che siamo cacciatori. Woohoo! Hunting! Oh, oh! Ma Paul, io sono contrario alla violenza. Oh, come al solito, non hai capito. Siamo cacciatori di diritti. Oh, ora è chiaro. Ma siamo nel deserto. Stiamo andando a far visita a un vecchio amico americano. Oh, oh. E lui non ama la grande città. Preferisce rimanere in incognito. Oh, davvero? Ma Paul, chi stiamo andando a trovare? È un artista molto famoso qui. Ti dimostrerò che puoi comprarti i diritti da un altro invece di prenderti i miei. Oh, oh, ma... Shh, siamo arrivati. Il tuo amico vive in un camper? Come i veri americani. Paul, lascia parlare me. Hello? Hello? Che carino. Vai pure a dire al boss che siamo venuti a proporre un grande affare. Oh, oh. Oh, Michael. Vedrai che Bruce ci... Oh, oh. Go away. Bruce. Sono Paul. Go away. Volevo presentarti il mio amico Michael. I don't fucking care. Ma volevamo... Volevamo parlarti di un affare. No way. Molto vantaggioso. Oh, oh, oh. Never. Next is for you. My dear, never, signor Bruce. Potremmo fare molti soldini. Ti avevo detto di lasciar parlare me. E quindi non finì bene questa storia di Paul e Mickey che andarono dal buon Bruce a proporre l'affare della vita. Ma veniamo a noi, veniamo al motivo per cui oggi se ne parla. Noi, per stare nell'attualità, va bene che usciamo ogni due anni, però almeno quando usciamo vogliamo essere sul pezzo con circa sei mesi di ritardo. Perché solo sei mesi fa usciva Liberami dal nulla, anche detto la biopic o film sulla vita di Brimstein. Ti aiuto, aiutami a dire Springsteen. Aiutami a dire Brimstein. Quindi diciamo che si andava a incrociare un pochino l'interesse di Cigni di Balacà per il diritto d'autore con il nostro pregresso interesse nel biopicking. Cioè, diciamo, quella fascinazione che avevamo avuto per i film tratti dalla vita dei grandi personaggi, in particolare dei musicisti, trattando noi, come al solito, strettamente di musica. E quindi ci eravamo interrogati al tempo su come fossero stati creati queste opere, diciamo, quanto fedeli, quanto fossero soprattutto stati messi alla prova gli attori protagonisti. Pensiamo a un Val Kilmer che mi fa Jim Morrison, pensiamo a Bohemian Rhapsody. Soprattutto avevamo detto: ma l'ha cantata lui? Non l'ha cantata lui? Lo stupore nello scoprire che molti di questi attori si erano voluti cimentare nel cantare veramente pezzi del loro, diciamo, alter ego originale, e quindi l'interesse per quello che adesso, diciamo, ci viene definito da questo contributo un po' meglio, e che comunque è, diciamo, il lavoro dell'attore. Ho sempre trovato che la mera osservazione di per sé sia un tantino rudimentale. A volte devi scavare per trovare l'oro della vera emozione. È così che diagrammi la fonte del dolore e la vivi. Comunque. Sì, sì, la vivi. Sì, esatto, sai, mi capitava, quando giravo Jack, di sentirmi realmente ritardato, sì, come un vero, sì, ritardato. Pensa. E in qualche modo ho dovuto, sai, fare mente locale per pensare che fosse normale essere stupido o scemo. O un deficiente. Sì. La deficienza. Esatto. È alta scienza, man, è arte. Sì. Sei un artista. Tanto di cappello. Specie sapendo che l'Academy la pensa così. Così com'è? Lo sanno tutti, non si fa il completo ritardato. Analizza. Dustin Hoffman. Rain Man sembra proprio un ritardato, ma non lo è. Stuzzicadenti, carte. Autistico. Sì, non ritardato. Prendi Tom Hanks, Forrest Gump. Tardo sì, ritardato forse, apparecchio alle gambe, però affascinava Nixon e vinceva a ping pong in un torneo. Non è da ritardato. Peter Sellers, Oltre il giardino, infantile sì, ritardato no. Eri un completo ritardato, man. Non mi credi? Chiedi a Sean Penn, 2001, mi chiamo Sam. Presente? completo ritardato. E sto a mani vuote. Ma questo sono io. Esatto, esatto. Se ho voluto far sentire questo contributo è proprio perché ci trovavamo con un Robert Downey Jr. che oltre a essere Iron Man in questo bellissimo film Tropic Thunder prendeva un po' in giro se stesso, il se stesso vero e il se stesso nella storia, cioè diciamo questo, questa meticolosità di alcuni attori che in Italia è rappresentata da Pier Francesco Favino fondamentalmente che pia, ingrassa, dimagrisce, interpreta Craxi, Buscetta, qualsiasi cosa gli fanno fare lui la fa e diventa quello e, anche Elio Germano anche, vabbè, però Favino come diceva anche Martellone li fa tutti Favino. In questo caso invece appunto parliamo di Jeremy Allen White, cioè il nostro indagato di oggi, colui che ha dovuto interpretare Bristy. Bruce. Il quale si è trovato ovviamente come tutti in difficoltà, perché? Perché anzitutto, come anche magari nel caso di Bohemian Rhapsody, non è che gli hanno fatti cantare tutti, perché cioè, alla fine se te no, sapevi cantare come Freddie Mercury, col baffo, il dentone, tu eri Freddie Mercury. Invece, cioè, comunque, insomma, si utilizzano anche contributi live mischiati all'attore che effettivamente dà prova di... anche in questo caso, anzi, soprattutto in questo caso, il povero Jeremy Allen White non sapeva suonare neanche la chitarra, oltre a... diciamo non avere la voce di Sbristi. Quindi inizialmente lui chiese proprio al regista: ma sei sicuro che lo devo fare io? Cioè io non so suonare la chitarra, non... e il regista gli dice: c'hai 6 mesi per imparare. E lui disse: vabbè, alla fine se mi dai sempre quei insomma €50 che abbiamo stabilito lo faccio. E con il suo maestro di chitarra quindi si è imparato 4 accordi in croce per simulare appunto Sbristi che scimmiottava un po' le sue canzoni durante il film. E la cosa che mi ha diciamo incuriosito e fatto pensare a questi metodi Stanislavski e quant'altro è che lui dice che per farsi venire il graffio alla Springsteen non gli veniva niente di meglio che passare giornate a urlare. Praticamente lui si svegliava la mattina e si faceva una mezz'oretta di strilli sul cuscino, cioè si metteva il cuscino in faccia e cominciava a urlare come un pazzo una mezz'oretta la mattina e una mezz'oretta la sera, finché non gli è andata ovviamente via la voce, un toccasana, ma poi rientrandogli la voce, come diciamo a quel punto di sonorità tipo Ultras della Roma, era perfetto per fare il vecchio blues, andava bene. Questo diciamo per tessere un pochino le lodi di questo attore che comunque si è sentito sotto botta, tant'è vero che altra curiosità è che a un certo punto, siccome Sbristi, l'originale, quello vero, stava tutti i giorni sul set, a un certo punto lui si è sentito di chiedere a The Boss di andarsene. Ha detto: senti, va bene tutto, sei The Boss, ma io se c'è stai te qua come una faina che mi guardi non gliela posso fa, puoi andare via 3-4 giorni dal set poi torni. E pare che The Boss gentilmente gli abbia detto: vabbè, io me ne vado, poi quando torno se non mi hai fatto bene te faccio licenziare. Però lo ha accontentato e quindi in questa opera. Perché scusami, ti interrompo. Prego. Generalmente in queste biopic, cioè le fanno sugli artisti morti. Quindi non ci sono. No, più. Ma ormai va di moda farlo pure. Hanno fatto The Rocketman su Elton John. Sì, sì, è vero. Cioè, sarà che tu hai citato Bohemian Rhapsody, un Rami Malek egregio, eccelso, che interpreta Freddie Mercury. A me viene in mente Serena Rossi, che ha interpretato Mia in Io sono Mia, il film su Mia Martini. Anche lei ha cantato i brani di Mia Martini ed è stata eccezionale, bravissima, una cosa molto molto difficile. E forse lo spirito di Mia Martini, chissà, aleggiava stava anche lì sul set in qualche modo. Però ecco, deve essere stato veramente difficile nel caso di... Ripeti il nome dell'attore? Jeremy Allen White. Esatto, proprio lui. Geremia il Bianco. Altro nome impronunciabile. Bravo, bravo, non c'è che dire, perché una leggera soggezione comunque ad avere l'interpretato lì sul set con te che lo interpretato, che comunque c'era la sua preoccupazione per i soldi, perché poi tornando poi alla questione iniziale, chiudendo il cerchio, 500 milioni di euro non gli sono bastati, si è spesi tutti dal 2021 a oggi, e quindi oggi avendo venduto tutto il catalogo al povero Bruce non è rimasto altro che vendere, diciamo, la propria storia, la propria vita, l'anima, che poi, cioè, tu mi insegni che in realtà poi in quel caso è il biografo pure che è considerato autore dell'opera, e quindi, però insomma, due spicci si sarà presi pure Bruce, bah, per aver messo a disposizione la propria vita, e quindi ha potuto pagare il buffo con la SNAI, siamo contenti, e nel restituire la linea allo studio di Centocelle ci ascoltiamo che ci ascoltiamo, Gabri? La Pantera Rosa. La Pantera Rosa, perché? Perché mi piace. Molto bene. Radio Forte, Centocelle Avengers. Alle 18:05 siamo a metà del divertimento, è il vostro momento, piccoli nerd. Sigla! Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso il Radio Forte Centocelle Avengers, c'è una rubrica tutta che si chiama Nerdelman. Come l'ha chiamato? Nerdelman! Grazie da Respect su Centocelle Avengers. Buonasera, piccoli nerd. Vi invito a sedervi, prendere la vostra copertina preferita, una bella tisana calda al cioccolato, e sedervi accanto alla finestra quando piove, per scoprire con noi non un contenuto in particolare, ma un genere che per anni ho amato senza conoscerne il nome e l'origine, che io stessa ho scoperto di recente. Parlo degli yashikei, un genere di manga, anime, film e libri giapponesi incluso nel cosiddetto slice of life, cioè quella parte di prodotti che danno una rappresentazione realistica della vita quotidiana. Yashikei è una parola giapponese che significa guarigione o tipo di guarigione, e viene usata per descrivere questo genere che nasce alla fine degli anni 70, ma è emerso come sottogenere distinto nel 95 sulla scia del terremoto di Kobe e dell'attentato alla metropolitana di Tokyo. Questi eventi traumatici, combinati con la recessione economica, avrebbero portato a quello che lo studioso Paul Roquet chiama la tendenza yashi, o boom della guarigione, cioè un'espressione di una ricerca di pace, rilassatezza e tranquillità. I racconti appartenenti a questo filone spesso non hanno una trama principale forte, ma indugiano sulla descrizione di scene di vita quotidiana, su eventi particolari della vita dei protagonisti, in un ambiente semplice, fatto di piccoli dettagli. Un esempio di questo è un libro che ho letto di recente e che vi consiglio moltissimo, che si chiama La cartoleria di Tsubaki. Tsubaki in giapponese significa camelia, e il libro parla di una signora che rileva la cartoleria di famiglia alla morte della nonna. La cartoleria non è solo un negozio di cancelleria, ma anche un punto di incontro del quartiere, dove le persone si recano per cercare l'aiuto della, come si chiama lei stessa, scrivana di quartiere. La proprietaria infatti è un'esperta di calligrafia, e su richiesta accoglie i clienti, li fa sedere al suo tavolo e, offerta loro una tazza di tè, li invita a raccontare la propria storia, allo scopo di scrivere delle lettere a loro nome per matrimoni, divorzi o l'accidentale dipartita di una scimmietta da compagnia. Vi troverete ad ascoltare le storie di queste persone, descritte in una maniera delicatissima, e a seguire il processo calligrafico della scrivana, che non solo si occupa della scrittura in sé, nei complicati caratteri giapponesi, e del contenuto della missiva, ma si cura di scegliere la giusta carta, il giusto inchiostro, persino il giusto francobollo, appropriato alla situazione e che rispecchi il sentire del cliente per come si è dimostrato al momento di raccontare e raccontarsi. È un libro che, più che una storia, fornisce un'esperienza di calma attraverso la cura e il dare grande dignità ai piccoli dettagli. Sono sicura che quasi arriverete a sentire il profumo dei fiori del grande albero di camelia, Tsubaki, che dà il titolo al libro. Sempre sul fronte libri c'è anche Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi, oddio l'ho detto bene, che parla di un locale, il Funiculi Funicula, ve lo giuro si chiama così, ed è ambientato in Giappone, dove pare abbiano una loro versione della canzone napoletana, omonima, in giapponese ovviamente, il cui argomento sono le mutande dei demoni, cioè Onipanzu. Vabbè sì dai, ve lo faccio sentire perché sennò non ci credete. Vabbè, stavamo dicendo. Un locale. Bello, scusa. Era finito, eh? No, no, lo fanno veramente. Non sto scherzando. Sono dei pazzi scatenati. Stavamo dicendo. Un locale dove, sedendosi su una specifica sedia e rispettando alcune regole, è possibile tornare indietro nel tempo, ma soltanto per il tempo di un caffè. Anche qui abbiamo racconti delle piccole, graziose storie delle persone che per un motivo o per l'altro desiderano tornare nel passato. Il romanzo riflette il modo in cui, secondo l'autore, le persone dovrebbero affrontare la realtà. I suoi personaggi, infatti, nonostante possano viaggiare nel tempo, non possono in nessun modo cambiare il presente. Viene spiegato che anche se un assassino avesse viaggiato nel passato per uccidere un uomo, quest'ultimo, grazie a una serie di coincidenze, per esempio l'ambulanza che arriva senza trovare traffico o la casuale presenza in città di un medico di fama mondiale disposto a operare il paziente, sarebbe comunque sopravvissuto, perché il suo destino nella realtà presente era quello di continuare a vivere. Il punto è quindi dimostrare ai lettori che per affrontare il presente e il futuro è necessario liberarsi del peso del passato, cioè trovare una soluzione che permetta di accettare ciò che è successo ed andare avanti. Super consigliato! Sullo stesso genere sono stati prodotti anche diversi anime e manga, tra cui alcuni di cui vi ho già parlato in puntate precedenti, come Aria, la storia di un'aspirante gondoliera nella città di Neo Venezia, ricostruita su Marte. Stavolta volevo indicarvi un anime più interessante musicalmente parlando, che si chiama Keion, del mangaka Kaki Fly. Keion è un manga del 2007, adattato come anime in due stagioni nel 2009, e racconta la storia di quattro studentesse di liceo, Tsumugi, alla tastiera, Mio, al basso, Ritsu, alla batteria, e la protagonista Yui, una principiante chitarrista, che si uniscono al club scolastico di musica leggera, per fare in modo che esso non venga smantellato per la mancanza di membri. Al secondo anno si unisce una quinta ragazza, Azusa, che all'inizio è molto sorpresa dall'abitudine del club, come bere tè, mangiare spuntini, fare poca pratica. Vi ricorda qualcosa, ragazzi? Tipo... Déjà vu. Tuttavia, si capisce dopo un po' che il Keion è una specie di seconda famiglia, insomma, un po' come il nostro MD, sostituendo la birra al tè però, non si sbagliamo. L'anime descrive la vita e le amicizie liceali con questo spirito molto yashikei. Le sigle di apertura e chiusura sono cantate dalle stesse doppiatrici delle protagoniste. Piccoli nerd, il nostro momento volge al termine. Spero che nei consigli che vi ho dato troverete il vostro momento di pace e relax. Vi lascio con una notizia bomba che non c'entra un cavolo, però per me è una notizia bomba, o anche, cioè più che altro perché ci speravo da sempre. Nel 2026 è stata annunciata A Knight of the Seven Kingdoms, uno spin-off di Game of Thrones, che finalmente racconta le vicende di Danke Egg. Cosa? Una serie di storie parallele scritte da Martin su un cavaliere sgancherato, Dank, che accompagna un Aegon Targaryen bambino in giro per i Sette Regni a farsi le ossa nella vita. Lo sapevate? Ah, è troppo carino! Evviva! Leggetevi i libri! Speriamo abbiano fatto un bel lavoro. Chiudiamo con la opening di Keion, Kagayake Girl. Vada, maestro! Sì. Radio Forte 100 Celle Avengers, è arrivato il momento finalmente in questo grande excursus che tiene botta per tutta la puntata riguardante il saggio che non ricordavi di aver fatto l'anno scorso. Madonna. Scusate, mi prendo fiato. È il momento dei cuori e quindi abbiamo The Beautiful Mind Franci, rappresentante dei cuori, al quale cedo la parola. Innanzitutto volevo dire che uno dei miei sogni per riallacciarmi alla rubrica di Bette è andare a fare karaoke in Giappone, quindi questa cosa vorrei andare solo in Giappone solo per fare karaoke, andare a ubriacare male e cantare con i giapponesi. Deve essere bellissimo, ci sono stata due volte e non sono mai riuscita ad andare al karaoke. Già. Detto questo, faccio anch'io l'elenco degli ex cuoricini che così quest'anno, però è facile. Che quest'anno si sono. Vabbè, lo so, ragazzi. Ah, bravi, a me mi avete buttato dalla rupe. Sto a giocare con le cheat. E voi ve le siete lette. Amici. Perché quest'anno i cuoricini si sono un po' spezzettati, perché sono andati un po' da Virgi, un po' dal maestro Suano, quindi insomma. Nonché io inizierei citando due grosse perdite che abbiamo avuto, perché non ci sono più MD, ma farei un salutone a Daniele. Sono vivi, come sono vivi, no, sono vivono e combattono tra di noi. Uno è Daniele e l'altro è Emanuele, sono i nostri cantanti, erano i nostri cantanti del gruppo dei cuori. Sono partiti per altri lidi. E quindi comincerei, non so, dalla batterista, che è Alessandra. Poi abbiamo la chitarrista Anita. Abbiamo Fabrizione al basso. Abbiamo avuto Francesco al sax. E poi vabbè, c'è stato un sottoscritto alla tastiera. Sottoscritto. E un salutone in particolare a Jessica, che è stata per tre lezioni, poi non si è più vista alla fine. E ovviamente il maestrone Alessio, che insegna anche quest'anno. Sempre nei nostri cuori. Grande, grazie Virgi. Questa me l'hai servita proprio, grande Virgi. Benissimo, e ci andiamo ad ascoltare la canzone che io suono compulsivamente ogni inizio prove per dimostrare che so muovermi un pochino sulla tastiera. Sai suonare il piano, è vero. Troubles dei Coldplay. Stupid thing.

Magari non a tutti interessa. Sì, sì, certo. Grande Nanni Moretti, ricordo. Lo spieghi. Ricordo che lo avremo ospite alla centesima puntata di 100 Celle Avengers. Tra 92 anni a terra. Esatto. No, non è vero. Infatti nessuno penso camperà abbastanza per saperlo. Ma detto questo, benvenuti e bentornati a Grand Hotel Hilbert, la rubrica che non vi lascia mai soli con i vostri dubbi sulla matematica. Al limite ve li peggiora, ma questo è un altro discorso. Allora, oggi parliamo dei gruppi, non quelli musicali come già anticipato, ma quelli che in matematica costituiscono una parte importante della teoria dell'algebra. Oh, ci tengo a precisare che l'algebra a cui potenzialmente state pensando, cioè quella dei licei, in questo momento non è quella di cui parlerò, cioè non c'entra una mazza qui, quindi... Cioè già quella era difficile comunque. Quando tu inizi matematica, cominci a fare tutti gli esami che tu dici: ah figo, c'è l'esame di algebra. Poi cominci a fare l'esame e scopri che non è algebra. Ah figo, c'è l'esame di geometria. E poi scopri che non è geometria, cioè non c'entra una mazza. Tipo, si chiama geometria, studi i vettori, spazi vettoriali. Quindi dici: ma dov'è la dove sono i cerchi, le cose? Quindi vabbè, questo cioè, è che tipo. Corso è? Che corso hai fatto? Ti facevano gli scherzetti. Algebra non è algebra, cioè non è. Ragazzi, tipo, oggi algebra non è vero, non è esatto. I gruppi sì. Non sei gruppi. E soprattutto sul corso di analisi fai in un mese tutto il programma di 5 anni di liceo e dici: oddio, che c'è sta dopo di questo? E quindi vabbè, niente. Raccontavo, avevo bisogno di questo piccolo momento di sfogo. Si è sfogato. Sono sfogato. Non fare così. Ok, bene. Ma cosa sono questi benedetti gruppi? Allora, in matematica un gruppo è un insieme diciamo con all'interno un'operazione binaria, cioè un'operazione viene fatta tra due elementi di questo insieme binaria. Per questo motivo non vi spaventate, mi sta guardando che rispetta, come quelli dei treni che rispetta determinate proprietà. Allora, tali proprietà sono la chiusura rispetto all'operazione binaria scelta, cioè il fatto che dati qualunque di due elementi dell'insieme, l'operazione tra di essi dà sempre come risultato un elemento dell'insieme. Pensavo che dicevi zero, già mi stava da sempre zero. No, cose... si dice che è chiusa, cioè quell'insieme è chiuso rispetto a quell'operazione, cioè non dà una cosa che sta fuori da quell'insieme. La proprietà associativa, sempre rispetto all'operazione scelta, e l'esistenza di un elemento neutro, cioè un elemento la cui operazione con un qualsiasi altro elemento dell'insieme restituisce l'elemento stesso. E infine l'esistenza per ogni elemento dell'insieme stesso di un suo inverso, quindi tale per cui l'operazione tra i due elementi restituisce l'elemento neutro. Allora, state calmi, adesso facciamo un piccolo esempio. Questa rubrica mi mette sempre a disagio. Prendiamo l'insieme dei numeri naturali con i suoi numeri negativi e con lo zero, quello che è l'insieme z, cioè l'insieme degli interi. Allora, come operazione prendiamo la somma. Ok, rispetto a questa operazione, infatti, z è un gruppo, in quanto la somma di due qualsiasi elementi rimane sempre all'interno dell'insieme. Se voi sommate due numeri interi, c'ho sempre un numero intero, quindi non esco fuori dall'insieme. La proprietà associativa è verificata, ovviamente per l'addizione vale sempre. Se io ho tre numeri, posso sommare i primi due o gli altri due, non cambia nulla, insomma è sommare di quello che rimane. L'elemento neutro è lo zero, ovviamente, perché qualsiasi numero sommato per lo zero ridà sempre lo stesso numero, e l'inverso è il suo relativo negativo. Ad esempio, se ho 5, il suo inverso sarà... meno 5! Grande, Danielo, vedo che hai studiato. Bravissimo. Ho paura a dirlo. Oh, piccolo esercizietto. Attenzione che dipende dall'operazione, quindi se invece dell'addizione prendiamo la moltiplicazione, z non è un gruppo, qualcuno me lo sa dire? Scrivetelo sui commenti, qual è la proprietà che non è rispettata di queste qua che ho citato. Siamo diventati youtubers a un certo punto. Esatto. Scrivetelo mettete like. Esatto. Tutti i cuoricini che stanno. Anzi, mettete hype. Dice che adesso su YouTube c'è l'hype, la funzione hype. Hype. È vero, c'è l'hype. C'è l'hype, sì, esatto. Non sto nella pelle. Non stai nella pelle. Allora, ma torniamo al gruppo Z. A partire da questo, tramite insomma una procedura che vi evito di spiegare perché è un po' lunghetta e un po' complicata, si ottiene un gruppo equivalente con un numero finito di elementi, più precisamente 12 elementi. Dirò solo che diciamo si ottiene considerando i numeri come raggruppabili in 12 categorie, cioè queste categorie sono il resto che tirano fuori i numeri per la divisione per 12. Quindi sostanzialmente ho 12 possibilità, cioè i numeri possono dare resto 0, 1, 2, 3 fino a 11 e poi ricomincio 0, cioè Io ho capito solo 12 e pensavo ai semitoni, però per attenzione, attenzione, ci arriviamo. Hai fatto lo spoilerone, ecco qua. Allora, quindi abbiamo esattamente 12 possibilità. L'operazione presa in considerazione è sempre la somma algebrica. L'elemento neutro è lo 0 e l'inverso di un elemento è quello che sommato a se stesso mi restituisce l'elemento 0. Va bene. Allora, esistono ovviamente un'infinità di gruppi. Pensate ad esempio al gruppo del cubo di Rubik, che è un gruppo costituito dalle mosse del cubo di Rubik. Infatti la scelta della configurazione iniziale del cubo, diciamo, c'è una corrispondenza biunivoca tra ogni configurazione possibile del cubo e gli elementi dell'insieme del gruppo. Corrispondenza biunivoca è una roba tipo 1 a 1, cioè, però comunque saltiamo, andiamo avanti. Torniamo a sta sfornato oggi, raga, sotto il mio bagno di umiltà biennale. Soccario. Torniamo al nostro insieme di 12 elementi. Allora, questo insieme di 12 elementi non mi fa accendere nessuna lampadina, in realtà diciamo, l'ha accesa Daniele perché ha fatto lo spoilerone, perché gli intervalli tra le note di una scala a 12 toni possono essere considerati un gruppo che agisce sulle note. Questo gruppo di intervalli sarebbe appunto rappresentato dal gruppo Z12, che agisce alzando o abbassando tutte le note della scala. Quindi ad esempio l'elemento 4 corrisponde a trasporre le note di una terza maggiore. L'elemento 6 equivale a trasporre su giù di un tritono e così via. L'elemento identità è semplicemente l'operazione trasponi di 0, cioè nel senso non trasporre. E l'inverso di ogni elemento è semplicemente trasponi giù piuttosto che trasponi su. Di okay? Ottava? No. Di ottava. Okay. Bene. La musica. Perché non l'hai detto al microfono? Non l'ho detto. Di ottava. Perché è lontano. Virgil aveva capito una cosa. Esatto. Allora, non mi avete ancora detto perché Z per non è un gruppo. Ma che, ma perché ce l'hai hai chiesto? Detto? Lo scriveranno sui commenti che non esiste. Oh, bene, cari amici, per oggi è tutto. E mi raccomando, come dicono spesso i nostri insegnanti di corso, studiate. Bene. Questa adesso, la sapevo. Visto che la prossima settimana ci sarà il concerto degli Halloween, dove andrò a vedere, vi lascio. No, questi sono i gong. È vero, non sembravano gli Halloween. Non sei più il cocco del maestro. No, guarda che gli hai fatto. Ah, mi sa che hai lasciato quella vecchia. Vabbè, ci possiamo. Top of the pop. Ci possiamo pure sentire i gong, che in realtà sono comunque fighissimi. Vabbè, dai, senza che ci stiamo impazzire. Lo sono passati 2 anni, ma chi se lo ricorda che avevamo messo l'anno? Esatto. Va bene così. Dai, allora vi lascio ai gong. Gong, The Pod and Pixies. Crazy. So neat, you never been. dio fuerte, mijito. Cento celle avanti. Oh, ma! E sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, in quell'ultima mezz'ora che mette la prescia perché hai paura che non ci stiamo tutti dentro, ma poi invece mi dà coraggio. E quindi, ci siamo stavolta. E voglio. Quindi è proprio il momento in cui, facendo ammenda con Franci, appunto, al quale ho sbagliato la traccia, da fonico introduco la rubrica dedicata ai fonici, alle loro lamentele. Il nome è Traumi Fonici e questa è la sigla. Sei fregato. Oh, che cazzo state dicendo? Andiamo! Sono il vostro fonico! Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. E ci sono un sacco di fonici qua che mi vanno a lavorare allo Stadio Olimpico. Questo è per darvi un pochino le coordinate di questo documento che andiamo ad ascoltare, che è l'ennesimo spin-off di cui c'era molto bisogno in questa trasmissione matrioschica che noi già facciamo, rubriche di rubriche, spin-off di spin-off. In questo caso appunto vi riporto allo Stadio Olimpico, quello stesso Stadio Olimpico dove Paul McCartney portò il sovracitato Michael Jackson per consigliargli acquisti, diciamo, di mercato con i suoi soldini. Però in un certo momento Michael sentì non mollare mai, non mollare mai, e ne trovò ispirazione per oppure quello Stadio Olimpico in cui Madonna, Luis, Veronica, Ciccone venne portata sempre da Paul McCartney e Michael Jackson, che ormai avevano capito che lì c'era da fare affari, e sentendo Laziale pezzo di merda, tutta la curva di insulta, lei elaborò: Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. Eccetera, eccetera. Ma non le è parole di questo. Sono le stesse. Esatto, gli ultra non lo sapranno mai. Ma non è di questo che parliamo, o quasi. Comunque parliamo di Stadio Olimpico, parliamo della nuova location in cui si svolgono le mie avventure e dello spin-off che si chiama Bob del Duke, che ovviamente ha una sigla. La ballata di Bob del Duke, una canzone che aveva una marcia in più. Negli anni 90 l'analogico, tutti quei bei multicol. Bob del Duke, Bob del Duke. Oggi se la vede con il digital e capi qualcosa se la passa mai. Nonostante questo non si piglia mai una responsabilità. Bob del Duke, Bob del Duke. Non cerca un trofeo, le fa proprio male a me, se trova qualcuno da incolpare. Bob del Duke, Bob del Duke. Iron Man, Alexa, come stiamo messi? Ci siamo. Sto ripristinando la console. Bene. Alexa, hai aggiornato la playlist? Ricordati che oggi è Roma-Lazio, non Lazio-Roma, eh? Affermativo. Sono pronta alla riproduzione. Riproduco. Buona, buona. Mancano ancora 2 ore. Stiamo calmi, stiamo calmi. Hai ricontrollato i flussi Dante? Tutti i collegamenti digitali sono a posto. A posto, si fa presto a dire a posto. E i lanciacori? Iron Man, hai montato i lanciacori? Lanciacori? Non capisco. Ma te l'ho spiegato 1000 volte. Da qui abbiamo pure la gestione delle casse che stanno sulle curve. E ci rimandiamo la voce del capo Ultras per lanciare i cori. Capito? Ma non avevano un megafono. Ai tempi tua, forse. Oggi passa tutto per questo mixer. È una cosa delicata, tra l'altro. Vedi? Cori Roma, cori Lazio. Capito che compito, sì. Dai, dai, vai che te devi scarrozzare ste casse dalla curva nord alla curva sud, che stanno in magazzino là dietro. Ma sono da solo. Tutto io devo fare. Calmo. In effetti la ditta dovrebbe mandare qualcun altro oggi, per il derby. Vediamo un po'. Alexa, chi abbiamo in convocazione allo stadio oggi? Secondo il database è previsto Bob Del Duke. No. Non lui. Disastro. Ma sei sicura? Confermo. I miei sensori hanno rilevato il suo ingresso ai tornelli dello stadio. Quando? È già qui. Un minuto fa. È finita, io mi licenzio. Ma me possono mannare quel matto proprio al derby? Io non lo so. Eccomi. Eccolo. Ciao Robè, come andiamo? Alla grande, te che dici, Daniel? Ma insomma, sai, è una giornata tesa. Ma sei sicuro che te la senti? Certo, perché? Io non vorrei fare la fine dell'altra volta. Ma come, Daniele? Non capisco. Capisco io. Che poi rimuovi tutto. Te manometti con quelle mani piene di dita e poi se c'è un problema non sai niente. Ah, io su certe cose alzo le mani. Alzi le mani. Daniele, ti assicuro che puoi fidarti ciecamente di me. Me posti non cercare. Vabbè, Sara, dai. Stavo dando i compiti a tutti. Eravamo ai lanciacori, giusto? Non dire altro, ci penso io. No, vabbè, non te lo... Ma stai scherzando? Sì, ok, ora non... Daniele, vieni qua. Alzati. E fa che? Mettite qua. Ma che stai... Vieni qua, alzati. Vabbè. Vieni qua, te dico. Girate le spalle. Ma che... Famo una cosa. A cosa? A cosa di fiducia. A cosa? Quella che te lasci e io te prendo. La prova di fiducia, vuoi dire? Bravo. Bravissimo. Ma dai, Rob, non c'è bisogno. Ce tengo, Daniele. Sono cose importanti sul lavoro, dai. No, ma veramente? Ma quale prova di... Allarga le braccia. Davanti a me, così. Bravo. Ecco, ora conto fino a tre e al tre te lasci andare. Ma che stiamo a fare? E io te pio al volo. Dai, uno. Dai. Uno. Uno. Mannaggia. Chiudi gli occhi, mi raccomando. Pure. Dai, la dovremo far bene. Sì, ma poi lavoriamo, eh. Uno. Due. Sei pronto? Vado. Sono le ore 13. Pausa pranzo, andiamo a mangiare. Eccolo. Oh, Dani, scusa. Ma li mortacci. Mannaggia. Scusami. È che non ci ho visto più, perdonami. Te e la prova di fiducia. Mi vergogno veramente. Fa piacere, va con le casti lanciacori maledetti, vai. Te stai tranquillo, sì. Qua al mixer, sì, e io vado. Vai, grazie. Dai, una botte ne pero. Aio. Ti sei fatto male? Stai bene. Iron Man, oggi la vedo male. No, mangiava. Ok, regà, ci siamo, eh. È il momento delle formazioni. Stiamo sul pezzo. Calmati. Andrà tutto bene. Un po' sento la tensione derby. Lo so. Apro microfono speaker. Apro preascolto Lanciacori Roma. Noi siamo là! Riproduco. Svilar! Mancini! Merda! Cosa? Merda! Che succede, Iron Man? Non capisco. Che succede? Perché? No, questo non va bene. I lanciacori sembrerebbero invertiti tra sud e nord. Invertiti? Alexa, inverti subito i flussi Dante. Fatto. Cosa? Oh, non è cambiato niente. E com'è possibile? Alexa, ha invertito. Affermativo. Ma la connessione sbagliata è in analogico. In analogico? Ma chi... Bob Del Duke li ha scambiati. Da qui non posso fare niente. Lo sapevo, l'ha scambiati manualmente. Tocca andare a risolvere a mano. Iron Man, tu vola in curva sud. Ok. Io penso alla nord. Vado. E io cosa faccio? Resta qua, crea un diversivo. Ok. Cerca qualche brano che possa distrarli. Avvio ricerca. Noi andiamo. Vola, Iron Man. Vado. Iron Man, mi dicevi? Forte e chiaro. Sto sorvolando la curva sud. Beato te che voli, io sto per le scale. Intanto opera. Io tra poco sono arrivato. Tifosi ostili, ripeto. Tifosi ostili. Tira una brutta aria. Attivo difese. Raggi infrasolari. Che te raggi? Fermati, sei matto. Qua causiamo una guerra civile. Alexa, hai trovato qualcosa? Forse sì. Riproduco. Cosa? I village people. Ma te sembra una cosa adatta a un pubblico de ultra omofobi? Ma te sei rincoglionita? Io e te deformato. Sei... Forza Roma, Ale! Ale! Sembra che gli piaccia. Tutti insieme, forza Roma, Ale! Sei un genio, Alex. Grazie della fiducia. Eh sì, mo famo la cosa della fiducia. Iron Man rientra, okay. Trova Bob e digli che gli devo parlare. Dai sensori risulta uscito dallo stadio. Maledetto, di nuovo, l'ha fatto di nuovo. Ci ha fregati. Me la pagherai, Bob. E mo pieme se ci riesci. La canzone nasce in itinere, anzi in iter, l'iter burocratico necessario a Roma per registrare una nascita. E io, rintontolito da vecchio infio, eppure poco pratico, me volli convincere che l'anagrafe fosse un posto magico, dove tutti gentili sono gli impiegati, perché danno il benvenuto ai nuovi nati e aiutano a scacciare tutti i timori che gli prendono ai neogenitori. Però comincia triste, in minore. Andavo fino in centro per riconoscimento, ancora un po' sgomento per questo lieto evento. Andavo e non sapevo, e ahimè manco capivo tutte quelle cartacce che ci toccava fa. Lo chiesi a una signora, che devo fare ora? Mi figlio è nato e ancora un nome non ce l'ha. Mi disse: giovinotto, se tu non fai fagotto, appena dopo l'atto, ecco dove devi andare. Luigi Petroselli, son sempre giorni belli, do cantano l'uccelli, sera serena il cor. Luigi Petroselli, son sempre giorni belli, è pieno di mischelli, castrati dall'amor. Via Luigi Petroselli, certi caroselli, la mamma col pancione, ti vai a parcheggiare. Via Luigi Petroselli, sindaco di Roma, la gente si ritrova nella natalità. Prima che scissi fora, mi chiese sta signora: ma voi siete sposati, uniti, già passati, sì? Ma signora, amor li tiene uniti, gli affetti naturali, e non domanda riti, e lacci coniugali. Mio bel romanticone, che era la situazione, lei a casa col pancione, e in giro a cazzarà. Per questo io consiglio, prendi, conosci il figlio e porta questo foglio e carta d'identità. Ma dove, signor? Non ho capito. Via Luigi Petroselli, do tante uccelli, ce vanno solo quelli che credono all'amore. Dai, riconoscimento vuol dire che non me pento, vuol dire che so contento e le porterò un fior. Ah beh, io le porterò un fior. Sì, vabbè, mi fa passare, signor. Ricordate ben ci crede tocca che sto giovinotto ficca la mano nella bocca della verità, che sta qua, proprio qua, via della greca, una parallela di via Luigi Petroselli erano giorni belli, tu madre lì fornelli e te a telefonare. Amore mio fai presto, sto bimbo è già molesto, io sola non ce resto, tu vedi da tornare. Sì, tempo di arrivare. Sì, vedi da non tardare. Amo, arrivo. Il mondo della radio è un pasticcio. Quattro ragazzi su radio forte e queste 100 c'è la Radio Forte, 100 Celle Avengers. Dopo questa botta di romanità da autore anonimo, cedo la parola a Virgi con la sua rubrica che ritorna dopo tanti anni. No. Non c'era? Ah, no, non è vero, no, niente. No. Vabbè, il bello è parlarsi nel fuori onda per capire, oh, allora poi famo così, così e così, e poi non ho capito un cazzo. Vabbè, tutto a posto. È tutto non a è la posto. Mia rubrica, è la rubrica di tutti questa, di tutti e tutte, che è 100 celle a Marcord, in cui dobbiamo finire l'excursus che abbiamo fatto sul saggio dell'anno scorso presentando il gruppo dei Quadri. Ah, oh, non puoi leggere? Non sto a leggere, non sto a leggere, eravamo pochi. Presento i Quadri con il maestro Adriano e alla batteria abbiamo Alessandro, al basso c'ero io, Virgi, al piano Simone, alla chitarra Daniela, alle voci Emanuele, Luisa e Fana. Io spero di aver ricordato tutti. Cioè abbiamo un pubblico preparatissimo che applaude tempo grande. Poi questa cosa dello stop con il brano splendido, splendente, maestro, a lei. Splendido, splendente, ho scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Arrestati come Franco, e avranno faccia nuova, grazie a un bisturi per te. Gente, tutto relativamente, grazie a un bisturi italiano. Grazie. Stai ascoltando Radio Forte. 100 Rangers. E ritorniamo dopo un sacco di tempo che non so quantificare con la rubrica All'epoca. Avete presente quella sensazione di sfinimento durante l'attesa di un download di un brano che ci ha accompagnati fino a poco tempo fa? Ecco, questo durante l'Unione Sovietica era niente di fronte al rischio di finire arrestati per un disco di Elvis inciso su una lastra di un femore. Oggi parliamo della Bone Music, ovvero dei Rebra, i supporti musicali illegali e di contrabbando in cui la musica veniva incisa, niente popò di meno che su delle lastre. Maestro, sigla! È una nuova diavoleria moderna. All'epoca a Roma non c'erano motorini con questi scalmanati, ma c'erano i filobus. A me piace molto questo programma di Paolo Limiti. All'epoca. Mamma mia, mi ero scordata sta sigla, quanto mi piace Sordi. Allora... Il vero Sordi. Sì, sì, il quasi Sordi. La musica. Ma quanto dovrebbe essere secondaria alla musica nella vita di una persona che lavora, che magari c'ha i pupi a cui dare retta, che deve barcamenarsi tra i problemi quotidiani e che alla fine non riesce a staccare un secondo con la testa? Papà. Esatto. Bene, noi invece della scuola di musica sappiamo bene che non c'è nulla di più falso e che la voglia di staccare, di fruire dell'arte, addirittura di crearla, è primaria e non secondaria per il benessere mentale della gente. Tutto ciò può essere palese se si pensa alla determinazione che aveva la gente durante l'Unione Sovietica, negli anni 60 poi, momento storico fondamentale per la rivoluzione musicale di cui godiamo ancora oggi. Lì invece molti autori erano banditi e un intero genere, il rock and roll, era totalmente vietato ad ascoltare. In quel periodo infatti nacque un modo totalmente innovativo per contrabbandare la musica, ovvero quello di registrare le tracce non su vinile ma su delle lastre. Lastre mediche con immagini di ossa rotte e parti del corpo annesse. Parlando subito delle conseguenze negative, l'ascolto era atroce e la qualità del suono era imbarazzante. Quindi niente frasi tipo ma dal telefono non si sente il basso, perché faticavi a sentire proprio le parole. Qui subito infatti abbiamo un esempio per capire di cosa stiamo parlando con Piotr Leschenko. Beh, si sente bene. Mamma mia. Stavo peggio, eh. No, proprio vabbè. Mo le parole sono pure russe, per carità, ma... le intuite? No. È un po' stornello romano, però. Sì, è vero, un pochetto ce l'ha, E questo è il sequel di Pio Pietroselli. Esatto. Gli alugi Pietroselli. Aspetta, dov'è? Eccolo qua. Grazie. Adesso invece immaginate la scena. Siamo nell'URSS degli anni 50-60. Il rock and roll è bandito. La musica di Elvis, dei Beatles o dei grandi artisti del blues è un sogno proibito. Il regime non ti vende vinili, non ti vende cassette. All'epoca non c'era Spotify, purtroppo. Ma la passione giovanile è come un pirata, trova sempre la falla nel sistema. E la falla in questo caso era una cosa che i sovietici producevano in abbondanza: le lastre dei raggi X. Ora, qui entriamo nel genio della pirateria. I nostri eroi prendevano queste lastre, magari con la bella immagine di una costola, infatti Rebra deriva esattamente da questa parola, costola, in russo, o di un ginocchio, a seconda di chi aveva avuto un incidente, le ritagliavano in forma di disco, ma ritagliate male, poi andatevele a vedere, ci facevano un buco al centro con un inchiodo o una sigaretta e voilà! Tramite dei registratori modificati incidevano sulle lastre la musica bandita. Il risultato era un audio con una qualità atroce. Insomma, nonostante l'audio pessimo, questi dischi però sono diventati un simbolo di libertà, considerata la difficoltà nella creazione e nella distribuzione di quelle che divennero veri e propri atti rivoluzionari e in qualche modo possiamo vederli come esempio di vera arte concettuale. Mai come allora la musica ti aiutava a guardarti dentro. Ho scritto anche patum psh, che sarebbe... Ok, tutto giusto. Ho capito dopo io, scusa. concludendo. Marisò butta la pasta che è pronta al dente. E poi che se mangiamo? Concludendo, all'epoca rischiavi grosso per un suono che sembrava uscire da un citofono rotto, ma ne valeva la pena se era l'unico modo per ascoltare, ad esempio, l'ultima canzone dell'ultimo album dei Beatles. Ho fatto un esempio a caso. Maestro, The End. Vogliono in Unione Sovietica mi facevano male le ossa. Sei stato segnalato, Daniele. Però comunque ringraziamo i Virgi per questa preziosa chicca di curiosità che veramente non sapevo. E mentre trascino la sigla sempre più avanti andando a sforare, io approfitto per salutarvi, per dirvi che ci vediamo sicuramente prestissimo. Beh, fra un paio di settimane, no? Di anni? Ma sì, che settimane figurate. Prima di Natale, scusa. No? Giusto, giusto. E quindi c'è Centocelle provato. Avengers, la rubrica biennale, la trasmissione che schifo. Trisemestrale. Periodica. non periodica. Esatto, non periodica. Tornerà presto, io vi voglio bene e vi ringrazio per essere stati con noi. E vi ricordo che questa puntata la trovate addirittura in podcast. Sigla! Ciao! Ciao!